America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We are quite challenged, but our diplomatic efforts continue unabated. We have put in place the strongest economic sanctions ever to have been assembled against Kim Jong-un. Rex Tillerson, il segretario di Stato. Potrebbe esserci un'apertura nel rapporto fra Stati Uniti e Corea del Nord, perché la notizia che circolava già nella giornata di ieri è che forse si è aperto un canale diretto per poter comunicare tra Washington e Pyongyang. Ecco, il fatto che ci sia un contatto diretto con la Corea del Nord per questi negoziati sul nucleare è certamente un passo positivo, è un passo che ci allontana dai venti di guerra, ma non è necessariamente un passo risolutivo. Perché? Perché lo spazio per il dialogo è davvero molto, molto limitato. Su questo anche Trump è intervenuto, c'è un po' il gioco del good cop, bad cop, no? Nel senso che Rex Tillerson porta avanti l'azione diplomatica, e però poi Trump ieri mattina che cosa ha scritto? Il nostro meraviglioso segretario di Stato Rex Tillerson sta sprecando il suo tempo nel cercare di trattare con Little Rocket Man, che è il nomignolo che si è inventato Donald Trump per Kim Jong-un. Risparmia le energie, Rex, faremo quel che c'è da fare. Ecco, sono messaggi ovviamente contraddittori che non necessariamente aiutano. Bene, chiusa con la politica, vorrei raccontarvi una storia piuttosto importante per l'America, ma per la città di New York, perché è morto ieri a 89 anni Cy Newhouse. Cy Newhouse era il maggior azionista di Advance Publication e soprattutto di Condé Nast. Condé Nast vuol dire, vuol dire Vanity Fair, vuol dire Vogue, vuol dire New Yorker. Cy Newhouse è stato un personaggio titanico che ha dominato la scena dei glossy magazine, ha dominato la scena della cultura americana, assumendo e licenziando direttori che hanno scritto la storia sociale degli Stati Uniti nel suo momento di splendore, in questi ultimi 40 anni, quando gli Stati Uniti vincono la Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti introducono nel mondo Internet. Ebbene, la storia del paese è raccontata da magazine come Vogue, come Vanity Fair, dal New Yorker, che ha passato sotto la guida di Cy Newhouse dei momenti difficili, perché a un certo punto Newhouse aveva licenziato il direttore storico del New Yorker per poi sostituirlo con Gottlieb e poi alla fine con Tina Brown. Tina Brown doveva rivitalizzare Vanity Fair, che era stato chiuso, pensate, negli anni 30, e c'è riuscita Tina Brown, perché Vanity Fair è diventato uno dei grandi glossy magazine americani con storie di glamour, ma anche di altissimo contenuto intellettuale, giornalistico e politico. Poi Tina Brown passò al New Yorker, ma stiamo parlando di una quindicina di anni fa, non fece altrettanto bene e alla fine Cy Newhouse ingaggiò David Remnick. A questo punto il New Yorker, direi, è tornato ad essere un punto di riferimento per le grandi correnti intellettuali degli Stati Uniti d'America. Vanity Fair invece è stato sotto la guida di Graydon Carter, che lo ha trasformato davvero in una grande potenza di quella che è la grande società degli attori di Hollywood, della finanza. Per darvi un'idea dell'importanza, ci sono stati alcuni film attorno ai prodotti di Cy Newhouse, che regnava su questo suo impero con un pugno di ferro. Uno di questi, lo ricorderete, The Devil Wears Prada, con Meryl Streep, che ha vinto addirittura un premio Oscar per questo suo ruolo di interprete di Anna Wintour, il direttore di Vogue, Vogue il giornale della moda, quindi la Bibbia della moda non solo americana ma mondiale. Anna Wintour a sua volta una potenza internazionale, perché Cy Newhouse era generosissimo con i suoi direttori, non gli risparmiava mezzi, voleva che a loro volta fossero delle celebrità che potessero fare da traino ai suoi magazine. Si chiude di fatto un'epoca, perché in effetti con Internet che avanza anche per i glossy magazine, per quanto belli, interessanti, ben costruiti, la situazione è sempre più difficile. E sempre sul piano simbolico, vi anticipo una notizia che sappiamo ormai da qualche giorno qui a New York, ma proprio Graydon Carter, quando sapeva che Cy Newhouse era in condizioni di salute davvero pessime, poveretto, aveva avuto degli ictus e quindi non stava bene, ha rassegnato le dimissioni da Vanity Fair. Chissà chi andrà a dirigerlo. Certo, oggi parliamo per la cultura, la società americana, di un'epoca che si chiude e un'epoca incerta che potrebbe aprirsi davanti a noi.